Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, vi stavamo aspettando, parlo al plurale perché naturalmente siamo in tanti, abbiamo Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, i titoli del nostro sommario e poi vediamo se riusciamo in qualche modo a parlare dei temi che più vi piacciono. Avarizia, quando essere fa rima con avere. Nausea e mal di pancia, forse è influenza. Novità per la terapia dei tumori epatici. Oggi vi porto ad esplorare una dimensione, direi una caratteristica della personalità umana che vi farà molto discutere, probabilmente anche sul luogo di lavoro oppure all'interno della coppia, considerando che frequentemente esse è oggetto di conflitto e dibattito. Tratteremo dell'avarizia e pensateci bene, se per qualcuno è un'estrema virtù alla quale bisognerebbe imparare a tornare in tempi di dissipazione in consulta, consumismo sfrenato, per altri invece è una delle peggiori condanne, perché limita la possibilità di vita e di gioia in seguito ad un'incapacità di usufruire dei mezzi di cui uno dispone. Allora, vizio o virtù? Questa potrebbe essere la prima domanda che vi faccio. Voi da che parte state? Però ho anche un altro quesito da porvi. Se voi dovreste associare all'avarizia un'immagine di qualcosa, insomma, se doveste scrivere una metafora, l'avarizia è come? Voi quale immagine, quale colore, quale frase utilizzereste? Chiamateci, scriveteci 800 24 0024 se volete parlare con noi, 349 238 6666 se preferite scriverci. Scriveremo proprio insieme una mappa, una sorta di atlante dell'avarizia usando le vostre immagini e le vostre metafore. Intanto vi presento subito i miei ospiti. Abbiamo in linea con noi il professor Stefano Zamani, autore di Avarizia, la passione dell'avere, edizione Il Mulino, professore ordinario di economia politica all'Università di Bologna. Professore, buongiorno e grazie. Buongiorno e grazie a voi. In studio abbiamo Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano, papà di Questa casa non è un albergo. Ciao, Nicoletta, ciao mamma. Allora, io chiederei subito al professor Zamani di iniziare questa sorta di gioco che abbiamo proposto ai nostri ascoltatori. L'avarizia è come? L'avarizia è come l'atteggiamento di chi confonde la forma con la sostanza, cioè l'avaro è uno che odia se stesso perché ama le cose che possono essere in denaro o in altro genere di cui si circonda. Dunque l'avaro tecnicamente è uno irrazionale, come un irrazionale che alla disperata ricerca della felicità si comporta in maniera da ottenere esattamente l'opposto. Tant'è vero che nella iconografia che da secoli rappresenta la figura dell'avaro, l'avaro è sempre una persona triste. Mai l'avaro viene rappresentato con il volto gioioso di chi sta bene, eccetera. Triste. E l'altra caratteristica su cui poco secondo me si riflette è che l'avaro è sempre un vecchio. Difficilmente l'opinione corrente definisce avaro un giovane, si tende piuttosto a dire il giovane pecca semmai di prodigalità, l'avaro invece è identificato col vecchio. E allora occorre interrogarsi su questo: come mai con l'avanzare dell'età tutti noi più o meno ovviamente diventiamo avari? E se è vero, come io ritengo, che l'avarizia produce infelicità, come avviare un processo di autoeducazione o di etereducazione nei confronti di chi diventa vecchio per impedirgli o impedirle di diventare avaro? Questi sono, secondo me, argomenti nuovi. Perché nuovi? Perché fino a non molto tempo fa la speranza di vita era di 60 anni. Nel 1950 in Italia l'età media era di 60 anni. Oggi, come sappiamo, è di 81 anni. Quindi dobbiamo aiutare le persone a capire che invecchiando si tende a diventare avari e soprattutto lo diventa chi già forse in gioventù aveva manifestato segni di questo tipo. E quindi una strategia direi culturale, educativa di questo tipo potrebbe servire senza dispendio di risorse ad aumentare il livello di felicità delle persone. Alberto, secondo te l'avarizia è? Guarda, mi vengono in mente due immagini: un bambino pieno di giochi che però si annoia perché ha paura a far toccare i suoi giochi dagli altri e perciò rimane solo. E l'altra è quella di un collezionista d'arte che invece di godere delle proprie opere è solo preoccupato di chiuderle in un bunker, in una cassaforte, perché nessuno gliele porti via. E quindi tutte le domande, tutti i pensieri che ha intorno a quelle opere d'arte non sono contemplative o di godimento, ma sono solo preoccupazione che qualcuno arrivi a rubargli il suo bottino. Quindi le cose di cui si circondano alla fine sono una persecuzione e non un piacere o un vantaggio per la propria vita. Si può essere avari senza rendersene conto, Alberto? Quali sono magari le domande che ciascuno di noi può farsi, anche segretamente, perché i vizi si fa fatica, no, ad ammetterli, per capire se è avaro in un ambito, in una parte della vita? Io direi quanto le mie passioni o le cose a cui mi interesso sono capaci di rendermi davvero più bella la vita, più libera la mia esistenza, più sociale la mia vita, e quanto invece diventano una trappola, cioè mi tolgono la libertà. Professor Zamagni, quindi possiamo anche, ritornando alla sua riflessione, chiederci: sono felice o sono infelice? Esatto, esatto. Il punto è che l'avaro, il primo errore dell'avaro è un errore proprio di razionalità. Secondo me è bene che si dica questo, perché se noi sottolineiamo soltanto la dimensione morale, che pure c'è, perdiamo di colpire nel segno. Se noi convinciamo invece che essere avari è essere irrazionali, in che senso? Nel senso che non raggiungo il fine per cui vivo, che è la felicità. Come la superbia e la passione dell'essere, appunto, come è stato ricordato, l'avarizia è la passione dell'avere. Ora, il Dickens, il famoso Scrooge di Dickens, è molto istruttivo, che vuol dire che è dalla penna di un letterato che in generale vengono le intuizioni più profonde. Scrooge, alla fine della sua esperienza, della sua esistenza, si mette, come ci racconta, come ci narra il racconto di Dickens, a distribuire. Ma perché? Non perché fosse diventato prodigo, ma perché, dice il testo di Dickens, lo Scrooge scopre che la reciprocità è l'antidoto all'avarizia. Cioè, nel momento in cui lui distribuisce i suoi soldi a destra e a manca, è lui a ringraziare i prenditori dei suoi averi, perché dice: voi mi state, per via di reciprocità, restituendo quella gioia, quella felicità che per tanti anni, durante la mia vita, durante i quali ho accumulato ricchezza su ricchezza, non avevo ottenuto. Allora, se noi facciamo questo sforzo di reciprocità, il risultato il primo passo fuori dall'avarizia è fatto. Intanto arrivano già dei messaggi dei nostri ascoltatori. L'avarizia è come la stitichezza, ci scrive Andrea da Modena, parimenti fastidiosa. L'avaro è uno zombie, ad un certo punto muore e non è vissuto. 800 24 00 24, un numero verde aperto agli avari e ai non avari, alle persone che credono nella reciprocità invece a coloro che preferiscono accumulare roba, risorse. 349-238-6666 se volete scriverci. Una mela al giorno. C'è in giro un'influenzina che prende stomaco ed intestino, infatti i sintomi sono nausea e diarrea, nulla di grave, ma come sappiamo è molto fastidiosa e devo dire particolarmente contagiosa, ha fatto vittime anche qua in redazione. Noi ne vogliamo parlare con il dottor Stefano Fagioli. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno a tutti. Direttore di gastroenterologia agli ospedali riuniti di Bergamo, che non sarà avaro di consigli, dottore. Ma di consigli non bisogna essere mai avari, in nulla, in genere, ma insomma, l'importante è che in questo caso ricordiamo che noi parliamo impropriamente di influenza intestinale, in realtà sono delle gastroenteriti virali. Sì. Ed è però ci preoccupiamo di più. Se io dico non sto tanto bene, ho una gastroenterite virale, uno dice invece uno Caspita. Dice ho un'influenzina. No, in realtà sono due ceppi, o comunque ceppi virali completamente distinti da quelli della classica influenza. La gastroenterite virale, proprio per definizione, colpisce il tratto digerente, e quindi le caratteristiche salienti sono la diarrea, la nausea e il vomito, che ovviamente possono accompagnarsi a febbre, che può anche essere molto alta, e ha dei sintomi parainfluenzali come il mal di testa, i brividi, qualche anche crampo addominale o dolenzie addominali e muscolari, sono cose che debilitano sicuramente e possono far star male in maniera anche significativa. Per almeno un paio di giorni, quindi dovremmo in 48 ore dovremmo liberarci di questi sintomi. In genere sì, però non sono infrequenti i casi e voglio dire c'è stato, in particolare in Liguria in questo periodo c'è stata una discreta incidenza di questi eventi con qualche ricovero ospedaliero anche, quindi può protrarsi anche per più giorni e lì il problema diventa più rilevante per i molto piccoli, per i bambini o i piuttosto anziani, che sono entrambe categorie a rischio di disidratarsi in causa di diarree o vomiti importanti, e quindi è la disidratazione il vero problema. Non ci sono terapie particolari da fare, se non appunto il supporto idrico, e nel caso particolare che ci fosse la febbre sopra i 38 gradi, allora è ragionevole usare un antipiretico. Nessuna indicazione per sintomi così e per i primissimi giorni ad utilizzare degli antidiarroici, quelli che in genere usa chi va in vacanza in posti esotici e viene punito dalle leggi locali. Senta, quindi molta serenità anche in questo. Dottor Fagioli, fermenti lattici? Ma ci sono dei dati che ovviamente sono controversi perché non sono così ben riproducibili, però che ci danno due informazioni che possono essere utili, e cioè che pare che i fermenti lattici siano in grado di avere sia un effetto di prevenzione, cioè chi ne fa uso con una discreta regolarità può andare incontro un po' meno o in maniera meno grave a questi disturbi, o nel caso persistano per più di un paio di giorni aiuta a risolverli un po' prima. Non c'è una consistenza scientifica così solida da renderla una terapia inevitabile. Però ci danno una mano. Diciamo che non fanno male, usiamo un termine generico. Dottor Fagioli, grazie. Buona giornata. Buona a tutti giornata. E crepi l'avarizia. Crepi l'avarizia, grazie. Buona giornata. Pronto soccorso. E noi torniamo ad occuparci proprio di avarizia. Il professor Stefano Zamagni, che è in linea con noi, ha dedicato proprio un libro sull'avarizia, La passione dell'avere. San Bernardo scrisse: è un continuo vivere in miseria per paura della miseria. Ma professor Zamagni, questa era la definizione che dava un santo. Lei nel suo libro fa un excursus storico intorno a quello che lei definisce vizio economico, che scopriamo dal suo libro è andato soggetto ad una pluralità di significati. Allora, ci può fare rapidamente un excursus che così ci fa conoscere un po' la considerazione dell'avarizia nelle varie epoche, e possiamo dire che ha avuto una storia un po' altalenante? Esatto, questa infatti è una caratteristica che ha, io stesso non conoscevo prima di mettermi a fare la ricerca da cui è nato il libro, e cioè l'avarizia ha due caratteristiche. Primo, il suo carattere camaleontico, buona, ed è il motivo per cui è più diffusa di quanto non si creda. Se uno ha il vizio della lussuria o ha il vizio della superbia, gli altri se ne accorgono subito. Ma chi è avaro tende a mimetizzarsi perché si vergogna nei confronti degli altri di essere tale, perché l'avaro lo sa che non sarà amato dagli altri, e allora addirittura l'avaro può vestire i panni del filantropo. Ci sono certe forme di filantropia che noi economisti stiamo studiando, che in effetti nascondono la passione dell'avere. Io ti faccio un dono, meglio, mi correggo, un regalo, per poter, come dire, depistarti, così tu credi che io non sia avaro e poi invece lo sono. L'altra caratteristica delle due è che nel corso dei secoli l'avarizia è andata soggetta ad una, come ha detto giustamente lei, ad una altalena di considerazioni. Ci sono state epoche storiche durante le quali l'avarizia è stata considerata il più grave dei vizi capitali. Poi, e questo è stato fino, diciamo, a circa l'ottavo secolo, settimo secolo dopo Cristo. Poi l'avarizia viene messa in subordine rispetto alla superbia. Poi, a partire dalla rivoluzione commerciale, undicesimo secolo, secolo terreno, livello europeo. L'avarizia torna ad essere il più grave dei vizi capitali. Poi, con l'avvento dell'umanesimo, siamo al 1400, l'avarizia comincia ad essere considerata una quasi virtù, fino a che all'inizio del Settecento, con Manzille, addirittura diventa una virtù. E la virtù, cioè, di chi accumula per produrre risorse funzionali allo sviluppo di tipo capitalistico. Teniamo presente la rivoluzione industriale inglese del Settecento e così via. Poi, e questo continua fino a non molti decenni fa. La novità di questa fase storica è che, forse a causa della crisi in atto, l'avarizia oggi sta tornando ad essere considerata un vizio capitale di serie proporzioni e di grande gravità. Questo allora che cosa significa? Significa che nei confronti dello stesso vizio la considerazione di tipo sia morale sia culturale o sociologica che viene data dalle persone che vivono in società cambia a seconda delle caratteristiche del ciclo economico produttivo. Perché l'avarizia fino a non pochi decenni fa era considerata una quasi virtù? Perché si diceva l'avaro è uno che risparmia, sì. E quindi risparmiando consente l'accumulazione. Oggi invece, di fronte a una crisi imperante come quella che ben sappiamo, è vero il contrario. Ci sono tanti messaggi che voglio leggervi e commentarvi, e chiedo naturalmente aiuto anche ai miei ospiti, anche ad Alberto, soprattutto ad Alberto. Cristian da Pisa ci scrive: la vita avara è come mangiare una minestra sciocca, per accumulare sale si vive una vita senza sapore. Ci scrive invece Sergio: ma l'avarizia in fondo non è una forma di insicurezza, Alberto? È certamente una forma di insicurezza ed è la paura di non avere mai vicino a sé abbastanza le cose di cui abbiamo bisogno, e probabilmente la sua radice sta proprio in un'insicurezza sugli affetti primari, cioè nel momento in cui non li abbiamo sentiti certi, sicuri, vicini e protettivi, abbiamo cominciato ad affrontare la vita con l'idea che la coperta è troppo corta, bisogna prendersi un proprio pezzetto e non mollarlo mai, e a quel punto così poi ci si muove nella vita e anche nelle relazioni. Molti sms stanno arrivando dicendo l'avaro che è avaro coi soldi lo è anche nei sentimenti. E questo lo vogliamo chiedere anche a voi, 824 0024. Ma io vorrei dare la linea a Don Grampa, parroco a Milano e docente di filosofia della religione all'Università Cattolica di Milano. Don Grampa, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e grazie, donna. Abbiamo bisogno di lei. Perché è un vizio capitale l'avarizia? È un vizio capitale perché, io credo, scambia il possesso per l'usufrutto. Noi non siamo i proprietari della terra e delle cose. La terra e le cose sono affidate alla nostra custodia, ma non ne siamo appunto i proprietari. Ne abbiamo l'uso, li dobbiamo coltivare, valorizzare, ma ultimamente non ne siamo i proprietari. L'avaro in qualche modo scambia la sua posizione ritenendosi perfettamente responsabile delle cose che gli sono state messe nelle mani, e quindi consuma la sua esistenza solo secondo una logica dell'avere, che è quella di accumulare per sé e stringere sempre più cose a sé. Don Grampa, ma si confessa ancora come peccato l'avarizia? Direi proprio di no. Ce lo siamo un po' dimenticati, insomma. Sì, non è l'unico, dobbiamo riconoscere che non è l'unico dei peccati che non viene confessato. Purtroppo c'è una polarizzazione su alcune cose, tutto il resto è dimenticato come se fosse secondario, mentre invece questo atteggiamento di essere noi padroni del mondo, che si esprime appunto nell'accumulo delle cose, è scarsamente avvertito come una colpa. Don, io volevo innanzi girare a lei molte delle domande che arrivano, ma fanno una domanda unica in fondo, che è quella: l'avaro, chi cerca di così possedere tanta roba, tante cose materiali, in realtà diventa anche un avaro nei sentimenti? Certamente, perché affida il senso della sua vita appunto all'accumulo delle cose, alla sicurezza che nasce dall'avere una quantità di cose, e non si espone nella relazione, non rischia la relazione che non può essere posseduta, ma che è la risorsa più bella, più importante dell'esistenza. E uno pensa appunto, le cose non parlano, le cose sono a nostra disposizione, quindi accumularle è relativamente rassicurante. La relazione ci porta fuori da noi verso l'altro ed è impegnativa. Il professor Zamani ha suggerito un percorso, una strada per uscire dall'avarizia che ci porta in felicità e che è la reciprocità. Professor Zamani, prima di salutarla, lei vuole dare un altro consiglio? Sì, aggiungerei a quanto ho ascoltato dagli amici e colleghi che sono intervenuti con le loro considerazioni molto interessanti, che l'avaro, dopo tutto, è uno che odia se stesso. È questo che bisogna riuscire a far capire, perché l'avidità che lo porta ad accumulare sempre di più porta anche a rompere le relazioni. Già Aristotele ci ricordava che la felicità è nella relazione interpersonale. L'avaro ama le cose anziché amare le persone. Ecco, quindi, come diceva Don Grampa, le cose non hanno vita. Certo. Esatto, ed è quindi questo il motivo per cui la terapia, se così possiamo usare, nei confronti dell'avaro, è quella di dire torna ad amare te stesso, nel senso cioè del self-love di cui parlava Adam Smith, cioè dell'amore proprio. Perché se avesse amore proprio, l'avaro non farebbe così, perché saprebbe che la sua felicità dipende dal riconoscimento. Allora, questo mi sembra che questo sia un buon consiglio da portarci a casa. Il professor Zamani è stato molto generoso con noi perché siamo riusciti a catturarlo così come Don Grampa, che saluto e ringrazio per essere stato con noi. Grazie a tutte e due. Grazie a voi, buona giornata. Grazie molto. Grazie professor Zamani, grazie Don Grampa. Dammi 4 soldi di trippa. La trippa? Ma che c'è il gatto? No, c'ho degli invitati. E gli dà la trippa? Oggi è sabato trippa. Sì, lo so. La trippa è un piatto ricercato, ma sai com'è, ho degli ospiti di riguardo e quindi... Beh, carità, la trippa è un piatto volgare. Dici? Sì. Beh, comunque, la trippa trippa, e non perdiamo tempo, fai presto. Sai come si dice in portoghese? Il tempo è moneta. The time is scudos. Ma signor Barone, la trippa, non va la trippa. Ma che figura ci fa? Farei una brutta figura? Certo, mi seccherebbe passare per avaro. Vieni da me. Compite le bistecche, guardi. Gliele taglio subito qui, guardi. Guardi, signor Barone, guardi che roba. Tenerissime. Vanno giù in un boccone. In un boccone solo? Ma scherziamo. E no, io vorrei qualche cosa di duretto. Qualche cosa che resiste più a lungo, capito? Va bene. Ecco qua. Quante ne faccio? Dunque, noi siamo, mio figlio, io... Siamo 4. Facciamo 3. Dai, è magnifico questo Totò, un po' un Totò con le braccine corte, così si definiscono anche gli avari. Guarda, la metafora delle braccine corte secondo me è spettacolare, perché con le braccine corte tu puoi solo stare sulle tue cose e stare lì a proteggerle, mentre pensa alla metafora dell'amore, per poter stringere qualcuno a te devi prima protendere le mani e aprire le braccia per poi poterle chiudere, quindi... Vorrei poi tornare sul messaggio che ci ha mandato uno dei primi ascoltatori, diceva l'avaro e l'avarizia come la stitichezza, perché ci sono delle riflessioni da fare lì abbastanza interessanti. Ma abbiamo Alfio che ci aspetta da un po', da Lucca. Alfio, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti? Ma dunque, sono state dette delle cose molto molto dure contro l'avarizia. Io non sono mai stato un tipo avaro, tutt'altro. Ma mi hanno messo in mente, appunto, quando si dicono cose troppo dure viene in mente il contrario. E certo. Cioè, nel mondo in cui viviamo, in cui c'è un consumismo sfrenato, anche lui terribile e così via, che ci porta un sacco di problemi, compreso in prima persona la vita che tutti ci roviniamo per appesi soldi per poi spenderli subito e così via. O se fossimo un pochino più avari, non può darsi che vadano un pochino meglio le cose? Già un prof precedente che è intervenuto ha detto il professor Zamani, sì. Ogni società, diciamo, si dà i peccati che vuole e si perdona quelli che prima erano considerati peccati. Può darsi che oggi come oggi ci sia un po' bisogno, ci faccia bene per la vita delle persone. Alfio, le passo un commento di Alberto, un po' di, non direi avarizia proprio, ma un po' di parsimonia. Io credo che quello perché che abbiamo detto che l'avaro è camaleontico, ma anche l'avarizia ha tante sfumature. Alfio ha ragione dicendo quando di una cosa se ne parla molto male ti viene da sottolineare invece anche i lati positivi, naturalmente con moderazione. Alberto, sì, io credo che Alfio ci faccia vedere l'altro lato della medaglia ugualmente grave, che è quello della dissipatezza, cioè quello del non sapere dare il giusto valore alle cose. E credo che la variabile che poi ci aiuta a capire perché sia avarizia che dissipatezza sono problemi è il concetto di cura, cioè ogni volta che uno si trova avaro ha troppa cura delle cose in sé e non degli altri. Chi dissipa invece non ha alcuna cura di ciò che butta via, e sono due atteggiamenti sbagliati. La parsimonia è un'altra cosa, la parsimonia parte proprio da un atteggiamento di cura verso le cose e verso gli altri, e soprattutto ho un progetto, cioè l'idea è che non risparmio accumulo oggi per sempre, ma accumulo oggi per poter, ce l'ha scritto anche una nostra amica, ha detto per fortuna che sono stata un po' avara perché così poi ho potuto pagare il mutuo. Invece Michele da Vicenza ci scrive: sono un avaro di libri, sono un collezionista, circa 4.000 libri antichi, non li faccio toccare da nessuno tranne che da me e sono felice. Alberto, lui si guarda i suoi libri, li ha messi da parte. Il collezionista può essere considerato un avaro, un tipo di avaro? Ma io credo che il collezionista sia invece un uomo o una donna che coltivano una forte, enorme, grande passione. E che come non è la passione dell'avere, è la passione del collezionare, esatto, e del ricercare. E credo che poi il collezionista in realtà non chiude le sue cose dentro un cassetto o un armadio, ma in realtà le vive e le gode. E sarebbe un avaro se, oltre a tutta questa avarizia intorno al libro, come la chiama lui, in realtà lui fosse anche avaro rispetto a tutto il resto. E questo è facile, basta che pensi un po' come si muove nella vita e chieda magari ai suoi amici: ma oltre al fatto che sono così appassionato dei libri e non ve li faccio toccare, sul resto delle cose? Perché poi credo che è proprio la roba quella, per dirla un po' alla verga, questa idea di dover tenere oggetti, cose vicini a sé e probabilmente attribuire ad essi un valore che è oggettivo e che però supera poi il buon senso. Maria ci chiama da Milano, buongiorno Maria, benvenuta. Grazie, devo dire che il primo pensiero era quello, ovviamente parliamo di un'avarizia che non dipende dalla disponibilità dei soldi, perché se uno non può lo diventa per forza, no? La prima cosa che mi è venuta in mente è che gli amici avari sono avari anche nei sentimenti. Io ho notato che hanno proprio un'aridità. E poi invece ho conosciuto, a differenza di quanto diceva l'autore del libro, delle persone molto allegre, con vite sociali anche molto brillanti, che però poi amavano circondarsi a persone, ma erano tirchi avare su quello che veniva messo in tavola. E da ultimo io noto che ciascuno di noi è avaro su qualcosa, cioè io sono meno disposta a spendere magari nell'attrezzatura sportiva perché quei soldi mi sembrano buttati via, mentre spendo più volentieri, non con le mani bucate, ma non sto a pensarci, su una cosa che a me interessa di più. Per cui mi sembrava che in realtà abbiamo degli angoli di avarizia, ciascuno di noi, dipende da quello che secondo noi ha valore per spendere. Probabilmente l'avaro totale non ha niente per cui gli valga la pena di privarsi dei suoi soldi. Mi sembrava questo. Maria, lei ha fatto delle riflessioni molto interessanti. Mi piace tornare su quell'angolo, ciascuno di noi ha degli angoli di avarizia. Ma in realtà, proprio perché sono angoli, io li chiamerei a quel punto strategie, cioè effettivamente uno fa bene ad avere un piano razionale su come utilizzare al meglio le cose che ha e soprattutto qual è il giusto valore che vuole dare alle cose che reputa più o meno importanti. L'avaro ha proprio però questa caratteristica che invece è desideroso di possesso e basta, e quindi non ha degli angoli, ha uno stato pervasivo per cui è facilmente riconoscibile. Di nuovo citando un SMS, quello che entra al bar, vede un amico e riesce sempre a farsi offrire il caffè, mai arrivare primo alla cassa. Ritorniamo alle braccine corte, ma io vorrei tornare all'avarizia come la stitichezza. Allora, io potrei dire questo, che mentre è chiaro che non tutti gli stitici sono avari, è invece molto probabile che la quasi totalità degli avari sia stitici, perché è incredibile poi come questa idea, proprio il braccino corto, quello che ti tieni tutto attaccato, provochi proprio in termini anche psicosomatici una tensione a trattenere, a non mollare, che effettivamente diventa poi anche un sintomo, un dato organico. Quindi è meglio, no? È meglio rilassarsi un po' e diventare... Lasciare andare, lasciare andare. Il concetto. Bartolomeo ci chiama invece da Salerno. Buongiorno Bartolomeo. Buongiorno a voi. Pronto? Siamo pronti. Vogliamo capire se da che parte sta riguardo all'avarizia. Io sto dalla parte dei... Non sono avaro, però ogni tanto sono geloso delle mie cose, ma non sono avaro. Ad esempio? Di quale cosa? Anche di un lavoro che faccio. Sono geloso e non lo voglio far vedere a un altro come lo faccio. Questo non è avarizia, no Alberto? Volevo domandare, sì. Ma si nasce avari o ci si diventa? Un genitore avaro può trasmettere al bimbo che cresce l'avarizia? Questo erano le mie domande. Il professor Zamagni ci diceva in apertura che l'avarizia è tipica dell'età avanzata, e quindi dice gli avari solitamente sono persone anziane, difficilmente un giovane può essere avaro. Invece Bartolomeo ci dice: ma si può nascere avari o si diventa? Forse qualche segnale di avarizia c'è anche in molti bambini. Ad esempio ci sono dei bambini che, Alberto tu lo sai bene, non vogliono assolutamente condividere i loro giochi con altri. Allora consideriamo sempre che tra i 3 e i 4 anni, questa è proprio una caratteristica fisiologica del bambino, che siccome non ha imparato ancora le regole sociali, sta proprio entrando nella socialità, effettivamente fa molta fatica a condividere. Questo è un percorso educativo che gli si deve far fare. Un genitore avaro, secondo me, ha due possibilità: o genererà un figlio che da adulto sarà prodigo, e questo è un figlio che ha elaborato la come fatica di convivere, come ci scrive un ascoltatore, o al contrario abituerà proprio un figlio all'idea che nel mondo, nella vita, tutto va tenuto, tutto è a rischio di essere perso, e a quel punto purtroppo renderà intergenerazionale il proprio difetto. In linea con noi abbiamo Mario da Milano. Buongiorno Mario. Buongiorno, io velocemente volevo dire che nella vita ho conosciuto tantissime persone di un tipo e dell'altro. Sì. Devo dire che facendo un sommario delle vite degli uni e degli altri, i prodighi, quindi le persone generose, vivono molto meglio, cioè complessivamente dà un bel risultato, non solo, ma coloro che per se stessi e anche per gli altri, quindi con generosità, non si permettono che il meglio, in genere riescono a finanziarlo. Quindi l'essere generosi è una ricetta anticrisi. In questi momenti si dimostra sempre di più che chi è generoso riesce a uscire dalle difficoltà, dagli alti e bassi della vita meglio. Del resto nessuno si è mai arricchito risparmiando. Mario, quindi lei ritorna sul concetto di reciprocità suggerito dal professor Zamagni. Alberto, noi diciamo che la persona generosa, diciamo la persona non avara. Ma io ti dirò che la generosità probabilmente è anche qualcosa di più, e stavo proprio riflettendo che i due migliori amici, una sei tu Nicoletta, l'altro si chiama Giancarlo, sono due persone di straordinaria generosità, e devo dire che questo l'ho realizzato proprio adesso, ha certamente fatto più bella la mia vita. Liliana, dalla provincia di Vicenza, grazie Alberto. Liliana, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Liliana, i complimenti fanno arrossire e poi emozionano un po', e però fanno piacere. Bisognerebbe essere generosi anche di riuscire, questo secondo me è una cosa bella, di non essere avari, e imparare a dire alle persone che ci stanno vicino ti voglio bene. Comunque Liliana, veniamo a lei. Allora, io volevo dirvi che sono, io sono avara o generosa secondo i miei stati d'animo. Sì. Per dire che io quando sono allegra, sono felice, io darei l'anima a tutti. Sì. Invece quando sono, come posso dire... Sì, sì, un po' triste, giù di corda, triste, certo. Facciamo un po' come gli animali, come no? Ecco. Non darei proprio, divento di una avarizia che sono quasi spaventata. Ma perché in questo modo lei si protegge? Perché facciamo un po' come fanno gli animali, quando non stanno bene, ad esempio i nostri cani, quando non stanno bene vanno a rintanarsi un po' nella loro cuccia o in quella che loro vivono come tale. Ma Alberto, come psicoterapeuta, darà sicuramente una lettura più profonda, ma penso che... possiamo perdonarci questi momenti di chiusura, Riccio? Sì, e direi che ne hai parlato anche tante volte tu in trasmissione, cioè una caratteristica proprio della tristezza e della depressione è che è una di quelle emozioni che poi ti fa chiudere, ti fa proprio trattenere, ma quella non è avarizia, è proprio una fase, un passaggio, un momento, un intervallo, ecco, della nostra vita su cui è importante lavorare. E spesso, ecco, lì il problema fondamentale è avere la forza di chiedere aiuto. Avere degli amici che avere ti dicono, amici, dai, certo. Che ci sono. Danilo, c'è anche Danilo da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno dottoressa, a lei e a tutti i suoi ospiti. Grazie Danilo. E grazie per avermi dato spazio. Io volevo dire semplicemente, io vivo una situazione strana, particolare, sì. Cioè in casa, sì, per carità, la normale economia familiare, io credo che non ci sia, c'è attenzione allo spreco, a questo e a questo, ma come in ogni buona famiglia, penso io, insomma. Certo. E c'è mio figlio invece, che ha 19 anni adesso ormai, che ha una particolare attenzione al denaro, al suo personalmente, perché poi lui fa dei piccoli lavorini per i quali insomma fa cassa a sé. Sì. E oltre al suo di denaro, fa attenzione anche al denaro che spende la mamma per la spesa, mettendo bocca sulla spesa alimentare della mamma. Quindi che fa il suo dire, vi mette in riga, insomma, Danilo, questo mette figlio. Mette in riga in maniera così esasperata ed esagerata che fa venire volte, voglia, insomma, di spendere. Io gli ho detto, guarda che i soldi sono fatti essere spesi, insomma, sì, sono frutto di sacrificio, frutto di lavoro, cioè, però non riesco. E questa cosa, insomma, lui ultimamente un po' forse la fa anche un po' come battuta, ma sì, io credo che profondamente ci sia proprio questa attenzione così particolare allo spendere soldi. E a tutti i livelli proprio, a tutti i livelli, anche per se stesso, insomma, com'è. Ha un po' una fissa il ragazzo del nostro amico Danilo. Alberto, allora, tre consigli velocissimi. Uno, approccio un po' paradossale, fargli un regalo veramente gratuito e di gran valore, perché tu sei troppo importante per me, le relazioni non hanno costo, e questo è quello per un cui siamo al chiaro. Mondo. Secondo messaggio che gli darei è obbligarlo, proprio dargli ogni giorno 10 euro da spendere in cose che non sono utili, se l'avarizia è una cosa che lo trattiene. Terza cosa, augurargli una donna generosa, perché diventa immediatamente un amore generoso che lo aiuterà a capire che cosa conta nella vita. E direi che non è stata avara di commenti ricevuti e subiti la notizia apparsa sulle agenzie ieri, è ripresa da tutti i media relativi alla dichiarazione che Morgan ha fatto sul suo presunto uso terapeutico di droghe. Penso che sia importante che interveniamo anche noi, perché Morgan non si è limitato a parlare di un uso personale di sostanze psicotrope, cosa comunque grave almeno per come la vedo io, ma ha addirittura rivendicato un uso terapeutico delle stesse. E su questo uso terapeutico è bene fare qualche specifica, perché prima di tutto credo proprio che non esista, e poi forse perché Morgan ha dimenticato di, direi, mettere in evidenza i molti effetti collaterali indesiderati, di cui voglio parlare oggi con un vero esperto, il dottor Vincenzo Marino, psichiatra e direttore del servizio dipendenza della ASL di Varese. Dottore, buongiorno. Buongiorno. Allora, cocaina come antidepressivo. Questo è il messaggio che è passato, o la giustificazione che è stata data. Sì, io trovo che il messaggio di Morgan sia molto pericoloso, soprattutto perché viene da un opinion leader del mondo giovanile, proprio perché rischia di sdoganare la cocaina come una sostanza poco pericolosa o addirittura utile. In realtà la cocaina ha sicuramente degli effetti antidepressivi, ma diciamo che è un pessimo farmaco per diverse ragioni. Una prima ragione è la sua cinetica. Mentre i farmaci antidepressivi che noi somministriamo ai pazienti hanno una cinetica dolce, quindi diciamo l'effetto è meno intenso ma è stabile e prolungato. Per esempio è possibile generalmente anche una sola assunzione giornaliera. Sì. La cocaina ha una cinetica di picco, va rapidamente su, ti porta in paradiso e ti abbandona mezz'ora dopo, lasciandoti in uno stato peggiore di quello di partenza. Questo vuol dire che per star bene bisogna continuare ad assumerla e si sviluppa rapidamente una dipendenza. E un esempio che io tendo a fare è che il farmaco antidepressivo, scherzandoci un po' su, è come la moglie, che non ti dà dopo un po' di anni delle sensazioni particolarmente intense, però ti stabilizza, ti fa star bene. La cocaina è un po' come l'amante, che ti dà la sensazione della Madonna ma ti distrugge la vita. Mi piace, gliela ruberò. Bene. Dottor Marino. Ci sono però anche altre ragioni per cui la cocaina è un pessimo farmaco. La cocaina, siccome alza molto i livelli di dopamina, quindi di questa sostanza, di questo neurotrasmettitore nel nostro cervello, nell'uso prolungato tende a dare abbastanza rapidamente psicosi, soprattutto psicosi paranoidee. Mm. Le persone cominciano a sviluppare l'idea che il mondo congiura contro di loro, sì. Cominciano a diventare sempre più aggressivi. A volte questi fenomeni si manifestano anche con delle allucinazioni uditive. Per esempio ricordo una ragazza molto giovane che faceva in un labarista qui in Varese che ha sviluppato delle allucinazioni uditive talmente fastidiose da richiedere un lungo trattamento psichiatrico che non ha risolto completamente poi la situazione. Ma produce anche dei danni, siccome alza la pressione, quindi crea dei picchi di ipertensione, produce dei danni diciamo al nostro sistema vascolare, e noi abbiamo l'età dei nostri vasi, cioè più i vasi sanguigni sono elastici e possono dilatarsi e restringere, più noi viviamo bene. Invece questi picchi pressori per esempio sono responsabili di infarti, gran parte degli infarti giovanili sono legati all'abuso di cocaina. Può dare delle aritmie, può dare come dire delle emorragie cerebrali, retiniche a livello dell'occhio, oltre a una serie di danni a vari organi e apparati. Se poi uno usa il crack si aggiungono i danni respiratori. Certo. Una terza problematica è poi quella sociale. E certo, perché detto da questo che è un guru per i giovani, questo è un messaggio che sdogana in qualche modo la coca, anzi è veramente un colpo vincente, un gol per il marketing della cocaina. Io credo, Alberto, che possiamo concludere la nostra puntata oggi invitando però anche i genitori a parlare con i loro figli delle dichiarazioni di Morgan. Senza paura, noi insieme al dottor Marino vi abbiamo fornito alcune indicazioni molto chiare per essere competenti con i vostri figli, fatene tesoro. Grazie dottor Marino per essere stato con noi. Grazie a voi. Alberto, noi ci sentiamo per Questa casa non è un albergo sabato, intanto grazie e a domani con gli ascoltatori di Essere Benessere. Buona giornata da Nicoletta Carbone.